Wolf Trips, i viaggi del lupo. E ci siamo anche questa sera con Wolf Trips. Oggi è il 27 ottobre 2017. È una serata, diciamo, molto tranquilla, Fabio, dai. Sì, dai, un po' di freddino. Inizia a far freddo anche qua in radio. Abbiamo anche Sara ai microfoni. Ciao. Sì, che sei però un po' troppo in basso. E io direi che partiamo subito con un po' di musica e poi dopo parleremo un po'. Ascoltiamo proprio Pronti Via. Ascoltiamo un brano che stiamo ascoltando un po' di volte dentro Wolf Trips. I tuoi amici, il Frnd con Biep, e loro vengono da Los Angeles. Salutiamo. Giusto per iniziare. Salutiamo. Sai che ormai siamo sempre legati a Los Angeles, ai luoghi caldi. Partiamo subito con loro. Still around, but you've been gone for quite some time. It finally feels like you're not mine. Will you remember me? 'Cause I'll remember you, yeah, you. You went out and found somebody new, and that still hurts. It's taking everything inside my bones to say these words. Even if it's not with me, I just want you to be happy. Just want you to be happy. Mi ricorda Stile Nautilus, sì. Canzone da limone d'oro, cioè. Ah, ok. È un pezzo bello tranquillo, dai. A me piace parecchio, non è male. Un bel pezzo. No, è carino. Giusto, sei per iniziare, ci sta per iniziare. Ma poi fa anche molta atmosfera. Già. Stasera abbiamo anche Sara dal blog Biomaterra. Ciao a tutti. Ciao, ti sento bassissima sempre. Sì? Sì. No, adesso sistemiamo, dai, qualche piccolo problema. Invece Emanuele oggi non ce oggi l'abbiamo non ci perso. Salutiamolo però. Sì, salutiamolo. Che secondo me si starà divertendo una cifra. Sì, è andato alla festa di laurea, quindi si sta divertendo. E speriamo che stia ascoltando la canzone Frnd. Poi dobbiamo salutare anche il Family Pub, perché sicuramente ci stanno ascoltando. Ah, ok. E anche salutiamo. Stasera ci sarà il DJ set poi dai DJ di Radio Lupo. Ah. Stasera c'è DJ Tony e DJ Ego. Che salutiamo anche loro. Ciao DJ Tony, ciao DJ Ego. Sentirò domani come sono andati. Tra l'altro mi arriva un'aria fredda e gelida. Siamo passati da quest'estate che faceva un caldo atomico. Adesso inizia a fare un freddo micidiale. Mamma mia. E andiamo ad ascoltare una prima novità di oggi con Da Afro. Ah, e quindi allora tu hai freddo, mettiamo un po' di musica calda. Sì, sempre, no? Sempre caldo. Il brano è Funk o Olic. È un brano funk Funkolic è quello che c'ho a lavoro che fa caldo e freddo. Quello è Funkolic, questo è proprio Funkolic, nel senso. Vabbè, lasciamo stare il senso. E lui viene da Atene, però, ci stiamo spostando in Europa. Sempre è strano caldo. Perché ultimamente abbiamo sempre messo pezzi Los Angeles, San Francisco, cose del genere. Nel nostro Mediterraneo pullula di nuovi artisti. Sì, sì. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo parleremo di qualcosa inerente. Dicevi, Sara, mi raccontavi prima che siccome l'altra volta abbiamo parlato del lupo cecoslovacco, la prima puntata, possiamo, insomma, continueremo sull'argomento, esatto. Che ci sta bene visto che siamo Radio Lupo Solitario, quindi è il famoso lupo di Samarate. Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Questo era un brano, dai, un pochettino sul funky house. Beh, abbiamo un po' sforato. Questo era figo. Amico, comunque, io, come, questo era proprio figo. Come dico io, abbiamo un po' pisciato fuori dal vaso. Ecco. Ricorda quelle serate di aperitivo dove c'è il sassofono. Comunque ricorda l'estate, sì. Però non siamo in estate. Mi ricorda invece dopo che hai fatto il limone d'oro, esci con questa canzone gasata. E niente, stasera l'idea è quella, va bene, abbiamo capito. Va. E allora ci dicevi, Sara, del lupo cecoslovacco, giusto? Sì, allora l'altra volta abbiamo parlato del lupo, no? Ma aspetta, prima di parlare. Allora, noi adesso giustamente uno dice: sto ascoltando la musica elettronica underground, mi parli del lupo. In realtà c'è il nesso, perché quest'anno Wolf Trips è in collaborazione col blog Biomaterra, che parla di problemi, possiamo dire, legati all'ambiente e alla natura. Sì, anche cose non problematiche, diciamo. No, vabbè, diciamo, parla di cose, persone, cose. Vedo cose, vedo persone, vedo gente. Persone, faccio cose, dico poi, cose. Visto che siamo a Radio Lupo Solitario, abbiamo detto, ma perché non uniamo le due cose Vedi che torna le cose. Le cose, sì, sì. Cose, delle cose. Se avevamo Mascarabeo, avevamo perso, ve lo dico prima. A Ruzzo l'avevamo fatto un sacco di punti. E quindi abbiamo detto, ciao, parliamo anche un po' di argomenti inerenti al lupo. E questa sera tocca al lupo cecoslovacco. Sì, perché la signorina Cristina, che sarà presente tra poco, salutiamo Cristina, ha sollevato la domanda sul lupo cecoslovacco, se tu ti ricordi, giusto? Sì, sì, sì, esatto. Sì, io me lo ricordo. Tu te lo ricordi, Fabio? Io lo ricordo. Io ho preso anche appunti l'altra volta. Allora, praticamente è risultato che il cane lupo cecoslovacco è una razza riconosciuta. Ma lui mi fa ridere, però. È una razza riconosciuta. Un attimo di serietà, dai. Aspetta, ci vorrebbe. Devo fare un jingletino di serietà. Mettere, esatto, il jingle di Piero Angela. Con il super quark. Esatto. Bellissimo. Salutiamo anche Piero Angela. Ciao. Che sicuramente ci starà ascoltando. Allora, torniamo a serie. Che comunque, aspetta, poi dopo torniamo a serie. È un bipolarista, Piero Angela. Perché è un bipolarista? Potrebbe essere Piero oppure Angela. Piero. Anche Alberto, Alberto pure. Vabbè, adesso torniamo veramente a serie, dai. Allora, il lupo cecoslovacco è una razza riconosciuta ufficialmente. Quindi Cristina, mi raccomando, ascoltami. È una razza canina riconosciuta nel 1955 e, pensa te Domenico, è stata creata, sì, mischiando cane pastore tedesco e il 4 lupi eurasiatici. Quindi è nata, però, tramite un'orgia, cioè 1 più 4 fa 5. È un po' come sicuramente c'è qualcosa che non quadra. Tante è un po' come l'Uber Soldat. Ah, ecco. E quindi, insomma, è stato creato questo ibrido. Però, insomma, l'ha creato, non l'ha creata la natura, ma è stato proprio l'uomo. Creato dall'uomo. E ha dato, sì, proprio, sì, questo nome cecoslovacco, perché è della Cecoslovacchia, cioè è stato fatto in... Che, diciamo, la creazione è avvenuta in Cecoslovacchia. Sì, esatto. Che proprio dei zozzoni sono. No, sì, sì. Mezzo, che schifo. Poi quando ero piccolo che guardavo quelle cose dicevo, era un pervertito, guarda cosa fanno, non ho capito io. Poi altre informazioni? Niente, sì, basta. Sì, c'è, cioè, cosa vuoi sapere? Non lo so, cioè l'altra volta era saltato fuori la questione se il fatto che fosse una razza cattiva o meno, no? Sai, il lupo comunque è un animale solitario o in branco, e quando si muove in branco ovviamente non è proprio docile che gli lanci lì una croccantina, lui te la viene a mangiare, anzi. Lascia la croccantina tazzana alla mano. Bravo. E quindi sì, era quello, era venuto un po' fuori il dubbio, no? Sì, si era anche sollevata la questione appunto su questo lupo cecoslovacco. Il problema è che alla fine, essendo sia cane che lupo, sì, il comportamento è un po' che... Ha assunto tutti e due i comportamenti. Esatto, sì, assume tutti e due i comportamenti. Alla fine, cioè, è come dire il pitbull, il bulldog... Il bulldozer. Bulldozer. Che caterpillar. Va bene, Fabio, adesso mi ripeti quello che mi hai detto. Sei come a scuola. Allora, nel 1476. No. Allora, facciamo così. Allora, grazie per la pillola, però resta qua che magari parliamo anche di qualcos'altro. L'ho trovata anche lì la pillola, ce ne abbiamo due allora. Sì, che due gatti. Già, dovrò fare una segnalazione al gruppo staff della radio per questa cosa qui. E lanciamo il prossimo brano. Questo te lo lancio. Chi sono? E lui è un rapper abbastanza famoso, si chiama Jay-Z, che non è JC. Questo è il cugino. Jay-Z. È quello non originale. Il brano è I Mean It ed è remix di Dropwitz. E lui viene dal Canada. Quindi oggi saltiamo dalla parte. Torniamo al freddo. Oggi siamo un po' più nel clima. C'era già abbastanza caldo qua dentro. Già. Vabbè, andiamo ad ascoltare quindi Jay-Z con I Mean It. I mean it.

Io intanto volevo salutare It da dietro la tua schiena. Vacca. Perché continuo a sentire la porta che fa. No, era il gatto delle sabbie, quello che faceva le fusa. Pensavo non mi dire It più It, che, però. Che stava cercando di entrare. Perché hai paura? È un palloncino. Io sono di quei poveri ragazzi che negli anni 90, all'età piccolina, non avevo manco 10 anni probabilmente, un mio amico mi disse: oh, c'è un film horror nuovo. Nuovo, non so se fosse nuovo, però a casa sua era nuovo. E, beh, era una volta It. Erano così, negli anni 80, no? Fine anni 80, fine anni 80. Adesso non diciamo quanti anni avevo, però diciamo che tanti anta, tanti anta. E mi sono cagato addosso di brutto. Ma va che guardavo anche sotto il letto. Mamma mia, adesso non mi ricordo. Beh, se lo guarda, io non l'ho visto tutto, però certe scene sono se un lo po' guardi adesso. Io l'ho guardato adesso, ero sveglio al mattino presto, non c'ho niente da fare, l'ho guardato. Mi sono messo a far colazione, l'ho spento. Perché. Dovevamo vedere quello però, nuovo. Quando adesso. Sei piccolo, che hai tipo 7-8 anni, vedere un film del genere. Sì, ci sta, ci sta. Infatti, io ancora quando vedo i pagliacci, detto tra di noi, mi viene quella sensazione non di paura, però di rabbia. Ma... cioè, beh, la combatto guarda, con la rabbia. Guarda, già che hai parlato di questa cosa qua, dopo la prossima canzone, ti volevo parlare proprio di una. È una malattia. Sono malato e non lo so. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è Future Mask Off con Marshmello, che anche lui è uno. È un gruppo dolce. No, a parte un gruppo dolce, artista uno... noto di questo Wolf no, Trips. Ma a parte artista noto, volevo dire uno mascherato. Visto che abbiamo parlato di It, pagliacci, di... Marshmello. Anche lui è uno mascherato. Slipknot. Yo. Miley Percocet, yeah. Miley Percocet, represent, yeah. Gotta represent, gang, gang. Chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet, chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet, chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask bitch. Mask on, on. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet, chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Fuck it, mask on. Mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, mask on, fuck your mask on. Intanto qua in radio c'è un po' di delirio. Sì, hanno visto un altro cane, sarà manco il lupo di Samarate c'è fuori. Eh sì, è il cane lupo, il cane lupo, il cane che parlavamo lupo. Prima. Il grande Nello che salutiamo. Io saluto tutti, sono il salutatore. Vabbè, Nello è... è storia il Nello. È la radice della radio, proprio è la radice. Pietro ha fondato Bravo. La chiesa, lui è la prima pietra di Radio Lupo. Giusto. Intanto stiamo finendo di ascoltare il brano di remix di Marshmello. Ma questi qua si possono fare anche sul fuoco, se non sbaglio. Sì. Infatti, però se lo metti lui sul fuoco... mi sa che si arrabbia un pochino. Ma sai che una volta ci ho provato e invece... a mettere lui sul fuoco? No, gli metto sul marshmallow, ma non è uscito come nei film. È vero. Forse ho sbagliato a prenderli. Tra l'altro, se lo mangi crudo... no, non rende. È proprio una porcheria sì, atomica. Non gasa più di tanto. Comunque, giusto per chiudere il discorso di prima di It. Stavo dicendo che c'era una malattia, o più che una malattia, una fobia, cioè, mi ricordavo di questa cosa, che è la coulrofobia, che è praticamente la paura dei clown, ingiustificata però, dicono. Io a leggerla così dalla prima parte pensavo che era un'altra cosa, come fobia, come la leggevi, non riuscivo a leggerla, era un po' complicata. E no, è praticamente una fobia che si sviluppa poi da bambini e si protrae, si potrebbe protrarre anche da adulti. E c'è gente proprio che ha paura. Secondo me il periodo del film di It ha favorito, diciamo, il nascere di questa fobia. Ma sai quanti come me che comunque quando vedono i pagliacci hanno questa sensazione? A me non piacciono, in realtà. Guarda che anche Stephen King ha paura. Sì. L'ha scritto lui e anche lui ha paura. Pensa che lui ha scritto quel libro lì, Cell, su questo telefono, che praticamente mandava delle radiazioni e insomma faceva un po' di bordello, no? E praticamente era la suoneria alta. No, cioè in realtà non mi ricordo bene adesso la trama, possiamo anche andarla a cercare. E praticamente lui, dopo che l'ha scritto, aveva paura di usare il telefono. Ma tante storie che ha scritto lui, ha detto che poi di avere paura delle storie che ha scritto. E vabbè, sai, è una persona geniale. Quindi avrà paura anche dei cani. Non ha fatto quel film Cujo. Libro, Cujo. No, io ho visto il film. Sì. I libri sono spessi, il film più veloce. Beh, il film in un paio d'orette è finita. Bravo. Vedi, vabbè, questo si bilancia la cultura e l'ignoranza. Cioè, se io faccio per l'ignoranza, mentre lei legge il libro. Giusto per chiudere il discorso, film, fine anno, cosa c'è? Allora, so che il 31 ottobre esce So. Vabbè, So, Star Wars. C'è un nuovo episodio di Star Wars. So, lo so pure io, non ho capito. Lo so. Mi è piaciuta tanto. Star Wars. Star Wars, un nuovo episodio. Sì, sì. Episodio 8. George Lucas ne aveva da scrivere. Sì, no, ma questo no, in realtà questa non è un'altra produzione. Non è proprio di George Lucas. Esatto. Diciamo che segue la trama di George. È una specie di spin-off, credo. Ah, ok. Non so se spin-off non è che abbiano avuto un grande successo. No, poi nella storia. Praticamente se stacchi, se fai lo spin-off, si spegne tutto. Ma tu ti ricordi Friends? Sì. Ti ricordi Joy di Friends? Sì. Dopo che è finito Friends, aveva fatto uno spin-off proprio di Joy. Lo conosco solo io perché nessuno l'ha mai vista. A quanto ho capito, non ho avuto questo grande successo. Ma questi spin-off, guarda, è meglio non farli. Tranne in realtà uno che ti dirò dopo il pezzo. Bravo. Che rende parecchio. E invece uno che proprio non ci piace niente. Lui è Unlike Pluto. Non gli piace. Unlike Pluto è quello, il cane della Disney. Sì, non gli piace. Unlike Pluto. Con il brano Let It Bleed. Ogni volta mi incasino. Come la canzone dei Beatles. Sì. Quella in realtà è l'ETB, però vabbè, dai. Sì, ma se gli togli le due lettere. Ed è cantata da Cristina Gatti. Ah, casa nostra. Sì. Cerchiamo Cristina Gatti, ma è buona. Me bleed. in my bones, and they ain't gonna know. And together we fall apart. Questa qua era la voce di Cristina Gatti, che abbiamo cercato su internet. Che salutiamo, ciao Cristina. Ciao anche i gatti vari. Vedi, cioè, abbiamo associato, giusto, i gatti e Cristina, e Cristina che parlerà che poi più tardi. Infatti. E andiamo avanti con... parlavo degli spin-off, uno invece che mi è piaciuto molto. Allora, prima di tutto, lo spin-off che cos'è? Praticamente è da una storia principale, da una serie principale viene preso un'idea, come dici tu, no, un personaggio, è creata un'altra serie che non c'entra nulla con quella principale. Prima serie. E il franchising Alien, perché è franchise Alien e franchise Predator, hanno creato una serie di spin-off. Uno è quello Alien vs Predator, che a me è piaciuto molto. E in più quest'anno è uscito fuori Alien Covenant, che è proprio uno spin-off, quindi è una storia presa da quell'altra. Presa da un'altra storia. E... che tra l'altro il Covenant mi ricorda un videogioco. No, nel videogioco c'era già. E invece questa qua è stata poi proprio un'altra, ma un'altra che roba. Cos'è il Covenant? E io mi ricordo nel videogioco di Halo. È una tipologia di alieni. Tutto qua. Okay. Tutto qua, non è nulla di particolare. Vabbè, direi che visto che oggi abbiamo parlato anche un po' di altre robe, ritorniamo un po' sulla musica. Presentaci il prossimo brano, che poi dopo lo lanciamo e ti salutiamo. Stasera salutiamo ti perché salutare. Se devo fuggire un po' prima, quindi saluto c'hai tutti delle quanti. C'hai delle cose da c'hai prendere. C'hai delle cose di famiglia da sbrigare. C'hai delle cose da... devi prendere la roba. Quindi vi saluto, vi do un abbraccio a tutti quanti. Allora, adesso ci ascoltiamo. Sober with Nicky Romero. Di Chat Code. Che neanche farlo apposta, loro sono di... saranno Los Angeles. È lei. Cioè, è una cosa impressionante. Più che altro c'è Nicky Romero. Che sì. un ignorante becero come me conosce, quindi sì. Lui non so abbastanza... assolutamente neanche che faccia possa avere, devo dire. Ma la secondo verità. Me sembra un po' un Fedez, un po' più alto, un po' più magro. Cioè, non che Fedez è grasso, però ha la faccia un po' più sottile. Per dirla come direbbe qualcuno qua presente, Tegherasum. Mica siamo qui a girare le verze. Questa qua è la mia lingua natale, proprio. Infatti si sente, guarda. Comunque, per dirla invece come manco sotto i cani, un po'. Per dire invece alla Manculicani, direi che ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. E ti ritroviamo settimana prossima. Settimana prossima ci sono, sì. Poi a breve avremo anche un'intervista con un ragazzo che abbiamo intervistato l'anno scorso. Non mi ricordo se c'era. DJ Power, DJ sì, Power sì, lui si chiama. Sì, me lo ricordo. No, è un ragazzo, è un giovine che quanti anni ha? Non mi ricordo, posso ricordarmi tutte le robe. Ho fatto l'intervista, la prima cosa che si chiede è quanti anni ha. Sì, ma l'hai fatto l'anno scorso. Ah, quindi ha aumentato un anno, giustamente. Più uno, diciamo, anno più uno. Piano più uno. Allora, quando gliela farò io l'intervista glielo chiedo. Senti, ma quanti anni più uno hai? E mo vediamo. Se non è settimana prossima, magari tra un paio di settimane. Quando ci sarai anche tu, però? Che non che ricordo che tu avevi... Sì, un giorno, ragazzi, non ci sarò. Donne, non piangete. Io torno. O magna generale, diciamo, c'hai da fare. It's been a while since I thought about you. It's been a while, have you thought about me too? I'm meeting him at the place that we used to. It's been a while since I thought about you. God, he almost looks like you in the dark. Sitting in the same corner at the bar. Yeah, we took so many shots, we went too hard. God, he almost looks like you in the dark. He ordered a drink before I could notice that Jack and Coke brought us into focus. I took a sip, it tasted just like it used to. It's been a while since I thought about you. I wouldn't say it sober, but the truth is coming out. I didn't miss you.

you. Rientriamo dalla pubblicità con questo brano di Slender più Keizu, Without You, che è un brano dubstep. Dimmi? Non, sono dei nomi un po' strani. Vabbè, loro sono dei DJ, aspetta, aspetta che cerco di vedere di dove sono. Los Angeles. Davvero? Sì. E anche questi sinceramente non è che li ho scelti con col pallino. Basta, allora, fine del programma, Domenico andrà a Los Angeles a infatti, conoscere questi DJ. Infatti, così infatti. Almeno, anzi, dovresti condurre proprio una, un programma lì, così almeno conosci tutti i DJ, dato che sono tutti di Los Angeles. Vabbè, almeno... intanto salutiamo la Cric che è arrivata ai microfoni. Ciao, ciao a tutti. Ok, ok. Tra l'altro... giornata pesante, settimana pesante. Mamma mia. Pesantissima, pesantissima. Infatti poi domani sera farò anche una bella serata io. Che non vai è... a far serata, sì, bravo. Sì, domani sera vado a fare proprio una bella serata. Chi vuol venire si può aggregare a Varese. C'è praticamente da fare un po' di montaggio di bulloni, di stringere un po' di cose. Cioè adesso vorrei una serata alternativa così, fino alle 7 del mattino più o meno, è così. Vabbè. Con colazione inclusa però, eh? Non lo so, non lo so. L'albergo, dovrebbe eh? Esserci lo spuntino, c'è il buffet offerto da, da una ditta, però non... Un brindisi di mezzanotte. Un brindisi di mezzanotte. Champagne. So. Chi vuol venire in mezzo ai binari a Varese domani notte? Siamo lì. Solo per il brindisi verrei io. No, vabbè, se dovete venire, se dovete venire almeno almeno venite a stringere due bulloni, a portarci a fare un po' di lavoro, che diamine, insomma. Ognuno faccia il proprio. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, settimana pesante, poi tu sei stata sempre via da queste parti, quindi sei stata in aree migliori. Beh, dove sei insomma. Andata? Cosa hai fatto questa settimana? Sapessi. Cose beh, non segrete. Sei stata qua però. No, no. Sono andata in quel di Domo, Domo d'Osso, la città fantastica. Pensavo stessi per dire città fantasma. Città fantasma. Che tra l'altro è ricordata perché... Tranquilla, non è successo niente. Una città che nei giochi è ricordata perché di come Domo d'Osso. Esatto, esatto. Vero, vero. Qualsiasi cosa tu fai il gioco delle parole, sai quello che devi scrivere, sì. Nomi, cose, città, persone. Con la D c'è sempre... Con la D, Domodossola. Basta, non ne so altre. E ti prendi pure 5 punti perché l'aveva scritto anche quell'altro, non 10. Però vabbè. È lunga, cioè fosse che so Scarabeo prenderesti tanti punti. Domodossola è lunga come città. Invece, ma lì va... Invece siamo nella S come Samarate e niente. E io direi che ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Poi non lo so, di cosa ci vorresti parlare tu? che c'è sempre qualcosa di... No, non c'è niente in me, vabbè. Adesso guarda, sinceramente non mi sono preparata nulla. Il brano andiamo dura... a braccia, vai. Quindi il brano, eh? Il brano dura 3 minuti e 25, quindi adesso ti puoi preparare qualcosa per questi 3 minuti e 25. Neckbreaker. E allora è K-Lab con Neckbreaker. Non mi ricordo il genere, adesso andiamo ad ascoltarlo e poi scopriremo se anche lui è di Los Angeles. Speriamo di no, dai. Non penso. Se no, veramente... È il bello che non le scelgo apposta. Yeah. I want it all. Yeah. Everybody put your hands up. Neck breaking. Get steady aiming at your head with these neck breaking tactics. Neck breaking. Neck breaking. Me in the forest with the nymphs and the sprites and a smack of electric jellyfish that light up the night. I'm surrounded by souls bright, every soldier a light, and tonight we getting right cause we fighting the same fight. Leaves glowing like a avatar, got fam all around, keepers of the jungle, ain't nobody burning this down. Got teachers and students, healers and protectors of sound, and they after our resources but we standing on ground. Started from the soil up and now we here at the peak, built a pyramid and filled it with the treasures we seek. But I ain't talking about no silver or gold or antiques. 15,000 strong, respect the tech. Yeah. And usually I don't speak for anyone but myself, but ain't nowhere I'd rather be than in these trees of my elves. I see shells and giant mushrooms that one up till sun up, and the party don't stop cause we always on the come up. Neck breaking. Get steady aiming at your head with these neck breaking tactics. Neck breaking. Hands up, it's a stick up, sorta like a robbery. I want everything you got more than just monopoly. I want you to rock with me, quality and quantities. Forget about your troubles, focus on your curiosity. Music is the offering, so let me see your palms as we gather here together, letting go of all our qualms. Stronger than ever, putting work in the dojo. So when I'm on the mic, the world is moving in slow-mo. Armed and ready with a rocket full of rackets. Steady aiming at your head with these neck-breaking tactics. Asthmatic in fact, but my rap's never lacking. Outlasting the pack, man, I'm nasty in action. I'm three stacking. Outcast from the west, QCLE into death. Get respect from the best, quest to progress. Learn this life is a test, so every check I collect, I feel blessed to accept. Red pill, blue pill, whatever you like. I'ma take them both, I'll be up all night. I'd like to get to know you, but I got no time. Story of my life, I'm too busy getting mine. Red pill, blue pill, whatever you like. I'ma take them both, I'll be up all night. I'd like to get to know you, but I got no time. Story of my life, I'm too busy getting mine. Yo, you can find me in the forest. Neck breaking. Get steady aiming at your head with these neck breaking. Loro sono K-Lab. Tra l'altro stavo guardando la pagina Facebook, non sapevo che si potesse mettere il video nella nella cover, ma anche nella foto profilo, sai? No, so quella che non puoi la sapevo. Le gif sì, ma il video addirittura non l'avevo ancora visto. Sì, infatti, se cercate io l'avevo K-Lab... già visto pure nella foto del profilo, quella visto. Mi mancava. Sì, sì. Cercate K-Lab su Facebook, esce fuori proprio la da loro dove pagina. Arrivano? E loro, allora, dicevamo, loro sono della Nuova Zelanda, Queenstown. Perfetto. Al momento sono in Canada e niente. No, guarda che c'era scritto, torna. Vancouver, vai su, Vancouver. Vai su. Queenstown. Booking, USA. Ah, no, Canada. Vabbè, questo è il loro, diciamo, servizio di booking, management, quello okay. No, quello ci sta. Intanto andiamo subito ad ascoltare il prossimo brano. E loro sono Yellow Claw e ci spostiamo ad Amsterdam con City on Lockdown. Roof is blazing for me, let that motherfucker burn now. Tell these bitches, watch it, it's my motherfucking turn now. We blazing, blazing. Why you hating, bitch? We blazing, blazing. So amazing. Everything is heat, bitch. Hot chick, hot whip. Burn it like a furnace, bitch, cause all I know is hot shit. We blazing, blazing. So why you waiting, bitch? We blazing, blazing. So amazing. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire. We got your city on the lockdown. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire.

Questo era il brano di Crafty Cuts Back to Flow, un brano break beat. Sempre nomi molto facili. Hai visto? E tra l'altro non mi sono neanche impappinato a dirlo. Era di dove sono? Aspetta, aspetta, te lo dico subito che me l'ero preparato, preparato e lo stavo trovando dopo e non per questo. Vabbè, me li stavo preparando tutti. Loro sono Londra, quindi rimaniamo comunque nella zona europea. Perfetto. Intanto volevo salutare i ragazzi del programma dopo, che è Wolfman Jack. Ciao a tutti, ciao. Wolfman Jack. La trasmissione si chiama Wolfman Jack alle 22 con Sam Pizzuto. Perfetto. E la Vivi, saremo in diretta e ci sarà un bel ospite. Dalle? 22 alle 23. Alle 23, e sera avremo Mario Risi come ospite qua a Radio Lupo, quindi sarà una bella intervista. Rimanete ancora qua con noi dopo le 22. Bene, bene. Perfetto. Tra l'altro il programma Wolfman Jack l'anno scorso lo faceva Giorgio Fioretti, quest'anno ha deciso così, ha lasciato la palla. Ha lasciato la palla. Vabbè. Tra l'altro vedo che se la stanno cavando anche molto bene, perché ho sentito un po' il programma, non è male. Noi invece siamo completamente KO oggi, però andiamo avanti un'altra mezz'oretta. Oggi settimana ci siamo presi proprio questa... Mamma mia, settimana veramente pesante. No, volevo intanto ricordare che questa sera Radio Lupo è presente al Family Pub di Narso. Li salutiamo. Sempre questa sera suonerà Tony e DJ Ego, che ormai penso che abbiano anche iniziato. Ho visto una foto prima che girava il gruppo, sul gruppo con loro. Li salutiamo, salutiamo anche i due DJ che sono là questa sera. Poi tra l'altro il locale è molto bello, a me è piaciuto. Sì. La birra accogliente. È buonissima, ragazzi, quindi sì. A posto. Ci sta. E andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Che tu di dicevi. Allora, il brano è di Zu più Niro, che si chiama Dreams. È un brano un po' particolare. Lui, diciamo che ha questa, come si può dire, sembianze. Mamma mia, già il nome Zu mi viene un coso cinese. Infatti ha delle sembianze cinesi. In realtà poi è di San Francisco, quindi vabbè. È un DJ di musica elettronica e... Poi Niro è invece un DJ molto famoso che ha prodotto drum and bass e altra musica sull'elettronica, sempre molto... lui è andato molto sul mainstream, quindi anche roba molto commerciale, molto conosciuta. Andiamo ad ascoltarlo adesso con Dreams, che ha poi questa introduzione, non so se senti sotto, molto... Inquietante, no, però il pezzo, devo dire la verità, mi piace e sto vedendo anche che su internet, su Beatport, su vari siti è molto in alto nelle classifiche. Andiamo ad ascoltarlo, Zu più Dreams. We'll be right back. hai sentito qua il China, che roba che tira fuori? Ah, sì, faccia. Dai. Sì, sì, è roba elettronica di classe, a me piace. Sì. Mi gusta, mi gusta. Sì, sì, dai, l'ho ascoltata volentieri. Perché l'hai ascoltata? Beh. Ti abbiamo visto, un orecchio infatti, da una parte e un orecchio dall'altra, scusami. Guarda, se sta crescendo il naso. No, un orecchio si butta sempre alla musica. Ma che c'è la telecamera, ti hanno visto che te ne sei andata. Ero lì, guarda. Vabbè, dopo ho capito, dopo in macchina la riascoltiamo fino a tornare a casa, tutto il tempo, così recuperiamo. Tanto sono solo 5 minuti, quindi. Facci. Guarda che vorrei guidare, non dormire. Ah, brava, brava. Se guidi tu va bene. Va bene. E adesso incrementiamo il ritmo un po' per gli ultimi brani, poi dopo lasceremo lo spazio. Cosa ci proponi? Allora, il prossimo brano è di un DJ che si chiama Edit. E, lui è londinese, Nottingham per l'esattezza. Beh, italiano non c'è nessuno oggi. No, c'era la Cristina Gatti. Sì, è vero, c'era un italiano che cantava, sì. E il brano si chiama Never Mind It ed è un brano drum and bass, quindi ci spostiamo un po' sulla drum and bass. Dei discorsi che abbiamo fatto oggi non riusciamo più a tirarne fuori nemmeno uno stasera. Sì, esatto. L'altra volta siamo proprio scarichi oggi. Al lupo, a domande, questa volta. Sì, no, questa oggi sera proprio la mia mente è modalità off. Sì, infatti, cioè, siamo proprio in modalità off. Vabbè, andiamo ad ascoltarci un po' di musica e lasciamo lo spazio a Edit con Never Mind It. You E questo era il brano Edit con Nevermind It. Tanto adesso si è popolata la radio oggi. Sì, oggi c'è, sì, c'è un bel po' di gente. Tutti per il programma successivo, tra l'altro, devo dire la verità. Che triste! Cioè, cosa dovete fare? Una tribuna politica oggi. Non so cosa state combinando. Beh, dai, noi prima eravamo in quattro, dai. Sì, c'era, sì, sì, era sì, popolato. Noi ce ne... ci combattiamo, combattiamo, ecco. Dai, combattiamo, mettiamola così. Intanto andiamo verso la chiusura del programma. Volevi dire qualcosa? Ma magari sono venuti per Mario Risi, adesso non so. Secondo me lo sapevo neanche. Sono venuti per Mario Risi, no? Sono venuti perché Radio Lupo è Radio Lupo e quindi anche, volevano vedere lo studio. Radio Lupo è Radio Lupo, non c'è storia, ragazzi. Sì. Infatti, cioè. La non può, radio non ha competitori, pure la parola mi sta abbandonando stasera. Infatti, fantastico. Sono le 9:30 quasi e diciamo che ormai siamo veramente KO totale, proprio tra un po' ci stendiamo qua per no, terra. No, io e vedo letti ovunque, non hai capito, cioè. No, ce l'ha, ce n'è uno là. Fronte, veramente divani, letti, divani. Non so se no, dove no, li nella vedi, mia, vedi la mia testa, la mia mente mi fa vedere letti che vanno. Va bene, va bene. Ascoltiamo il prossimo brano. Ormai siamo verso la fine della programma di Wolf Trips. Lui è John Bellion con All Time Low. Ma All Time Low. Night in shining armor in your movie. Well, put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Torniamo con John Bellion, All Time Low. Da dove veniva lui? Francese, no, francese. No, no, no, è francese. Anche perché con John Bellion, John Bellion. Non è che mi viene in mente una persona di Lione, no? Non so per risonanza, non per altro. Così, va bene. E volevo far annunciare il prossimo brano a te, Sara. Così poi dopo ci abbiamo verso la fine della puntata. Faremo un po' di saluti e poi lasciamo lo spazio al prossimo programma. Allora, introduciamo l'ultimo brano di questa serata che si chiama Aspetta, qual è? Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Guarda, te lo indico anche. Got Your Love. Sì. Dirty Phonics. Che tra l'altro sono dei DJ. Ma quella parolina là dopo cos'è? Sarà Versus Riot. Vai, mettiamola così. Mm-hmm. Sai che ormai ci sono i DJ, si inventano di tutto per attirare un po' l'attenzione con i nomi dei titoli. Questo sarà un Versus Dirty Phonics, una cosa del genere. Tra l'altro Dirty Phonics, anche loro sono francesi di Parigi e io ci avevo suonato anni fa insieme. E Riot chi è? Veramente? No, conosco. Non mi manca. Non so chi sia. Adesso cercare subito su Wikipedia. Ho suonato all'Alcatraz con loro, con Dirty Phonics. No, eravamo Brain Shocker e loro suonavano Dirty Phonics. Ah. Andiamo ad ascoltarli con Got Your Love. Poi ci vediamo per i saluti. Ci sentiamo per i saluti. Sì. Non ci vedremo. Sarà un po' difficile. Del lupo. E siamo arrivati alla fine anche per stasera. Ce l'abbiamo fatta, dai. Andiamo a letto. Adesso possiamo iniziare la nuova possiamo settimana. Andare a letto. Sì, poi tra l'altro con la musica anche bella leggera, no? Proprio alla fine. Sì, proprio, infatti. Proprio una musica che ti carichi, ti dà voglia di andare a letto proprio. Guarda. Ah, ma non ti preoccupare. Va bene. No. A letto si va comunque. Comunque, visto che tu avevi le curiosità di sapere chi era Riot, sono andato un po' a informarmi, a cercare, ed è un duo di DJ di Los Angeles, tanto per cambiare. Sempre là. Los Angeles, quindi Domenico mi dovrò trasferire lì. Sì. Va bene, direi che per oggi è tutto. Ci sentiamo settimana prossima. Sì, penso di sì. Settimana prossima, venerdì prossimo. È il 3, giusto. Esatto. Vi ricordo sempre, se domani sera volete fare una bella seratona con me a Varese, c'è da stringere un po' di bulloni, c'è da lavorare un po'. Io vengo per lo champagne. C'è lo special guest. Per quello posso anche arrivare, ma per altro non lo so. Mezzanotte lo champagne, abbiamo detto, quindi a mezzanotte saremo a Varese. Poi vediamo un po'. Se invece volete andare a bere e mangiare qualcosa, c'è sempre Family Pub fino a mezzanotte circa. Che salutiamo. E probabilmente faremo anche una serata martedì sera. Sappilo, segnatelo. Dobbiamo andare anche a suonare lì. Eh già. Perfetto. E poi niente, saluto i ragazzi poi del Wolfman Jack, che vengono subito dopo, che c'è già una larga rappresentanza, ce ne sono tanto parecchi oggi. Forse stanno arrivando anche altri vari ospiti. È arrivato anche Sam, e lo salutiamo. E con grande ospite, giusto? Avremo Mario Risi, che adesso penso che arriverà tra poco anche lui. Gli faremo una bella intervista dove racconterà la sua carriera da musicista e insomma. Mario Riso. Bene. Allora, è arrivato anche Sam. Questa era la voce di Sam. È arrivato in ritardo, adesso mi ammazza. Va bene, concludiamo qui. Con cosa sei arrivato? Per questa settimana è tutto, ci sentiamo settimana prossima. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.